Bene, allora io vi ringrazio. Siamo in compagnia questa sera con Sandra Passarello, che leggerà alcune parti del libro. La ringrazio tantissimo. E ecco, quindi benvenuti e bentornati all'Associazione ASA. Grazie. E la biblioteca intende andare avanti con questi incontri, quindi siamo contentissimi anche che le associazioni ritornino a trovarci, si riprenda un dialogo. Saluto tantissimo anche qui Lettera 7, ci sono anche Roberto Marino e Maria Pia Zanetti, che anche presta la voce spesso, no, per queste iniziative, quindi ripartiamo con un po' di fiducia. E il 2023 sarà un anno molto denso, faremo ogni lunedì qualcosa e mercoledì dei salotti, degli incontri letterari, più gruppo, più impostati sul gruppo di lettura, quindi. E poi partiremo di nuovo con i corsi per la biblioteca digitale, quindi chi ha voglia di riprendere in mano la piattaforma, imparare come si usa da casa, come leggere il giornale, vi faremo sapere. L'importante è iscriversi alla biblioteca e lasciarci il vostro indirizzo mail, così ricevete tutte le notizie. Grazie. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Ah, due appuntamenti, 12 e 15, facciamo due serate dedicate all'Agenda 2030, con la musica dell'Istituto Musicale. Siamo qui nella Sala Zero e ci saranno delle letture dedicate ai temi degli obiettivi dell'Agenda 2030 e gli accompagnamenti musicali dell'Istituto Musicale. Quindi 12 e 15 dicembre. Un appuntamento ogni anno, tra novembre e dicembre lo dedichiamo a queste tematiche. Grazie, buona serata. Grazie. Io ringrazio voi, ma direi, se Sandra Passarello appunto ha la disponibilità di leggere quel testo di Riesman, poi dico qualcosa anche, ma soprattutto passo a inquadrare il rock and roll. Dio si sente? No, meglio che si sembra questo, forse è meglio. Ah, provi? Ecco. Sì. Con quello si sente meglio. Vada meglio, sì. Bene, mi vedete? Sì, mi sentite? Sì. Nonostante il raffreddore. Non si sente. Una citazione da David Riesman, che naturalmente va presa cum grano salis, non è adattabile a ogni momento del rock and roll, tantomeno, direi, alle sue figure apicali, come i cantanti e autori qui esaminati nella fase apicale del loro successo e quindi di maggior condizionamento da parte delle case discografiche, ascoltatori di rock and roll. Si tratta di un gruppo minoritario. Ne fanno parte gli ascoltatori più attivi, quelli meno interessati alla melodia e al motivo, ma più all'arrangiamento o ai virtuosismi tecnici. Hanno stabilito dei canoni elaborati, forse fin troppo elaborati. La tendenza è quella di rifiutare i gruppi, come anche i cantanti e gli autori, in voga, ad eccezione degli interpreti neri di blues, e i motivi commerciali trasmessi alla radio. Ci sono altri metodi di sfruttare la musica pop adottati dal gruppo minoritario per distinguersi dalla maggioranza e quindi dalla cultura americana pop in genere. Atteggiamento favorevole o di netta preferenza per i musicisti di colore, parità tra i sessi in amore e sul lavoro, una prospettiva più internazionale, ad esempio nell'interesse francese per il jazz americano. Boris Vian, viene da dire, per un francofilo modesto specialista della chanson française, e del Vian non solo musicista e chansonnier, ma anche scrittore e teorico della politica. Identificazione con i gruppi più disagiati, non soltanto le popolazioni di colore che sono alla base delle origini del jazz, senza necessariamente coltivare un culto romantico per il proletariato. Concezione della musica vista come un qualcosa di molto più importante del semplice sottofondo per ballare, discutere, studiare, eccetera. Un disprezzo generalizzato per l'immagine dei teenager diffusa dai mass media. Sì, io ringrazio ancora. E dunque un breve commento. Era un sociologo di origine ebraico tedesca, però nato negli Stati Uniti, quindi non un profugo, non un esule dal nazismo, ben inteso, ma un nativo, diciamo, una persona nata negli Stati Uniti, ma che si portava dietro tutto quel grande bagaglio che naturalmente il pensiero tedesco e ebraico-tedesco in particolare si portava dietro, cioè pensate a Adorno, pensate a Horkheimer, pensate a Walter Benjamin, ne parlavo prima con un gentile amico qui della biblioteca, o Herbert Marcuse e tanti altri che afferiscono, diciamo, alla cosiddetta Frankfurt Schule, no? Alla scuola di Francoforte, ma poi tutto il rapporto con la psicologia e con la sociologia in specifico, perché Riesman era un sociologo in primis, è una rappresentazione dell'epoca, adesso non ricordo esattamente ce l'ho sul cellulare, quindi non potrei controllare, ma grosso modo mi sembra muoia all'inizio degli anni 2000 Riesman, quindi più o meno questi sono gli anni, e lui aveva seguito da vicino il movimento contestualizzandolo nella più generale protesta giovanile di quegli anni. Ecco, un appunto solo, che in realtà non è un appunto, perché Riesman lo dice bene, non necessariamente il proletariato, ossia il discorso lotta di classe, marxismo, tutto quello che volete, negli Stati Uniti non entra più di tanto, anche perché c'è una... conventio ad excludendum, cioè una proibizione, no? Voi sapete, dopo Yalta, dopo la spartizione del mondo in due settori, per l'Europa ma non solo, anche voi sapete, no? Per il discorso delle due Coree, dei due Vietnam, eccetera, cosa che sappiamo tutti, c'era proprio una proibizione per andare negli Stati Uniti, bisogna firmare un documento per cui si dice, si afferma, e la cosa viene ovviamente verificata, controllata, di non essere iscritti a nessun movimento di tipo comunistico. Questo è proprio una dura... Tutto il resto è ammesso negli Stati Uniti, eh? Si diceva abbastanza di recente, anche in sede teologica, anche qui tra l'altro a Bolzano, tutte le religioni negli Stati Uniti sono ammesse, esclusa la religione surrogatoria, come altri sociologi hanno scritto, che è il marxismo, il marxismo-leninismo se volete. Questo è un po' da tenere presente, quindi fa bene Riesman a dirlo, però è anche la verità. Accenno solo a un fatto. Dunque, il rock and roll nasce, come avete sentito, soprattutto da radici nere, quindi il blues, ma anche il jazz. Qual è la sostanza dal punto di vista musicale? Il fatto che armonia e soprattutto melodia lasciano in qualche modo spazio al ritmo. Il ritmo è il fondamento del rock and roll. Cosa vuol dire rock and roll? È un inviare, cioè due cose in una, e vuol dire sostanzialmente una danza che va in circolo, questo vuol dire, no? Una danza circolare attinge quindi diciamo alla temporalità, il fatto che alcune battute vengano lasciate fuori, che è nel jazz, che è nel blues per il martellamento in qualche modo, e c'è una radice, questo soprattutto per il grande rock bianco, scusate ma la distinzione è da fare, non sono razzista, credo che tutti voi lo sappiate, no? Ecco, però Elvis Presley stesso diceva, bisogna ammettere, c'è un rock bianco e c'è un rock delle popolazioni afroamericane. Voi sapete che c'è un'estensione vocale che è diversa nelle persone di colore. Non ho problemi a dirlo, io ho sposato una all'epoca ragazza di colore quasi, mulatta, e diciamo alcuni suoi parenti, io sono stato in America Latina dove abita, e ho trovato persone che non sono mulatte, sono proprio nere, ecco, e la vocalità è diversa. Una certa gutturalità, ma mi scuso, insomma, non vorrei, per esempio dei neri, soprattutto americani, perché la grande musica è poi quella appunto che si è creata tra i coltivatori di cotone, raccoglitori di cotone, eccetera, negli stati del sud degli Stati Uniti. Altre brevi notazioni storiche. Dicevo, il Cold War, la guerra fredda dopo Yalta, dopo la spartizione del mondo, voi sapete, Churchill, Roosevelt, Stalin, no? Erano i vincitori, erano presenti come, e lì si è creata la situazione che in qualche modo, nonostante il crollo del muro, certo, eccetera, perdura tuttora. Quindi qui sarebbe anche da riflettere su questo. C'è una situazione di relativo benessere negli Stati Uniti, ma su questo poi ancora qualcosa, no? Proprio parlando anche di rock and roll, non distanziandosi troppo. Dicevo, relativo benessere che però è scarso per le classi lavoratrici. Quella che è la working class, gli operai, insomma, non hanno lo stesso tenore di vita che ha la borghesia. Ecco, questo detto in brevissimo tempo. E un'altra notazione da fare, credo sia in qualche modo indispensabile, la situazione razziale, quindi appunto il discorso della segregazione dei neri e in parte anche delle popolazioni latine, i cosiddetti latinos, cioè quelli che vengono dal Messico soprattutto o dall'America del Sud, dall'America Latina, che parla spagnolo o portoghese in generale, no? Voi sapete, uno dei problemi tuttora per la politica americana è l'immigrazione dal Messico. Il famoso muro che Trump voleva erigere, eccetera, tutto quello che si connette con questo. Non mi esprimo perché ognuno a riguardo ha il suo pensiero, giustamente, quindi non dico nulla. Ecco, per la questione nera, quindi degli afroamericani cosiddetti, invece fino alle lotte Martin Luther King, Junior, perché era il figlio del primo pastore, no? Ecco, e in forma non violenta, e poi invece Malcolm X in forma di guerriglia violenta, il problema poi viene a porsi, no? E attenzione, il rock and roll, distinguiamo tra rock and roll e rock, così in soldoni almeno. Il rock and roll è la prima fase, viene identificata con la prima fase, quindi qualcuno dice addirittura dai tardi anni 40 o dall'inizio degli anni 50 fino al massimo al 64-65 circa. Poi naturalmente questi artisti si esibiscono anche molto dopo. Però ecco, voi pensate che tutta la questione appunto dell'integrazione dei neri americani, che si è ovviamente realizzata, pensate alle due presidenze di Obama, che era un mulatto, però tutto questo si realizza non prima degli anni 70. Martin Luther King muore nel 68 forse. E 68 muore anche Robert Kennedy, no? Che era un difensore notoriamente, quindi per non dire poi di episodi ulteriori, anche Malcolm X poi, ma insomma, lasciamo perdere perché tutta la storia, però ecco, quello che dicevo prima, per esempio, il non marxismo negli Stati Uniti, anche dei movimenti protestatari, è una cosa assolutamente vera. Ricordo quando ho scritto anni fa, abbastanza infelicemente, quella pièce teatrale dove mettevamo in scena anche personaggi appunto della controcultura americana. Io spiegavo all'attrice, che ora so che fa anche regie, Flora Sarrubo. Flora Sarrubo. Mi diceva così, spiegavo un po' di questo strano psicologo che è il teorico dell'LSD, Timothy Leary, no? E spiegavo, dico, no, guarda che non c'è assolutamente nulla di comunistico, lei sperava in Timothy Leary, che anzi era ferocemente contro, scrive delle cose terribili, non per, anzi per la difesa dell'Occidente, eccetera. Non parliamo della cosiddetta Beat Generation, dove tutti gli esponenti, William Burroughs ha scritto delle cose terribili contro l'Unione Sovietica, per esempio, no? O altri, quindi le cose vanno viste con, bisogna un po' documentarsi sui testi e cercare di leggere le cose, perché come non è vero, ecco, che per esempio l'estrema destra, cosiddetta estrema destra americana, sia razzista o sia per esempio contro i diritti dei gay o altro, assolutamente non è vero. Io cito sempre Barry Goldwater, candidato repubblicano di estrema destra, cosiddetta, per le definizioni europee, che invece dal punto di vista della libertà dell'individuo è di una apertura totale. Quindi il fatto poi che sia stato pubblicato in italiano dalla casa editrice Il Borghese non vuol dire nulla, perché si vede che non hanno letto bene i testi, insomma, i fascisti non c'è nulla, ecco, per essere chiari. Questo breve introduzione, scusate, ma bisogna un po' storicizzare anche. E la musica è sempre stato, da un lato, un settore che faceva guadagnare molto, e dall'altro un qualcosa che veniva visto, sì, insomma, qualcosa di limitato a una certa fascia d'età, giovanile, e non più per persone cosiddette mature, no? Poi, vabbè, mi ricordo un compagno all'università, un po' sciopato, insomma, che mi diceva, ma tu non sei una persona matura, perché parla romagnolo. Dico, no, non ci tengo, perché probabilmente non ci arriverò mai, insomma, non mi interessa, non è un telos, non è un fine che io mi proponga, perché già è difficile capirci qualcosa, immaginatevi se bisogna poi anche essere maturi nel capire, insomma, no? Ecco, e quindi vale un po' quella citazione che ho posto di Pio Baldelli, su cui testi per molti motivi dissento, o dai quei testi dissento, ma ritengo abbia scritto bene. C'era una separazione anche negli States tra una musica colta, quella classica, e invece quella cosiddetta digestiva, che sarebbe la musica leggera, no? Dove sappiamo che invece le cose stanno abbastanza in modo diverso. Io volevo iniziare coi cosiddetti peritestuali, io li chiamo, cioè quelli che non fanno del vero rock and roll, ma fanno ritmi sincopati. Per esempio il gruppo, in questo caso afro, i cosiddetti The Platters. The Platters, no? Ecco, c'è, voi sapete perché l'avrete sentito dai genitori, anche voi, insomma, Only You, che è una schnulze, lo dico in tedesco, terribile, cioè una musicaccia, una terribile cosa che dice, ha fatto innamorare non so quante coppie. Io non capisco nulla di questo, quindi non mi astengo dai giudizi, ecco. E invece c'è The Great Pretender, che è un brano elaboratissimo, dove c'è il cantante, che era questo Tony Williams, persona che aveva anche un'impostazione vocale seria e ben fatta, e il coro, quindi c'è il discorso del contrappunto, musicalmente interessantissimo. Non è rock and roll, prevale nettamente la melodia, e quindi non siamo in quest'ambito, però chapeau, insomma, non Only You, ma di Great Pretender, che poi vuol dire, insomma, il mestatore, il mentitore, il grande, una roba finto, così, no? Cioè quello che fa finta, insomma. Sì, l'imbroglione, sì. Non so, ecco, che è poi una cosa che torna in uno dei brani più rock and roll di Don Elvis Presley, no? Che è The Hound Dog, cioè il cane da caccia, insomma, una roba così. E il cane da caccia vuol dire quello, mi ricordo il compianto Francesco Tomo attribuiva la cosa, io non ho esperienza di questo, quindi al compianto, ancora una volta, Heinz Moore, diceva prende le ragazze degli altri, insomma, io non so perché non ho esperienza di questo, però si diceva di Heinz, insomma, del grande Heinz. Per me io ho un'altra, scusate, ma ogni tanto mi lascio prendere dai ricordi, senectus ipsa morbus, quindi siamo prigionieri dell'età. E poi io, beh, insomma, credo che si sappia, non ho problemi a dirlo, insomma, no? Dice, era un'icona gay Elvis. No, Elvis era un'icona per l'arte. Andy Warhol, no? Ha fatto cose straordinarie su di lui, come su Marilyn, no? Su Marilyn Monroe o su altri personaggi, anche su Jagger, anche su Mick Jagger, che è il leader dei Rolling Stones, no? Sono, ecco, avrete capito, sono uno stonziano, non un beatlesiano, ma ho sempre amato un po' the bad boys, no? I cattivi ragazzi, insomma, no? Non essendolo, perché non ho la struttura fisica né caratteriologica per esserlo, ma i cattivi ragazzi in apparenza spesso invece sono poi buoni, e quindi anche lì bisogna saper distinguere. Però, no, dicevo, per esempio Elvis, tra le tante cose grandi che ha fatto rock and roll, ma anche vorrei citare e consigliare all'ascolto, indurre all'ascolto, ecco, per esempio The Little Town of Bethlehem, la piccola città di Bethlehem, è bellissimo, è un in realtà uno spiritual, tra spiritual e blues, direi, tendente spiritual, e lo fa, ben inteso, da bianco, white man, però lo fa quasi come lo facevano i neri, o tutte le canzoni natalizie, i Christmas songs di Elvis sono da ascoltare, non solo White e Blue Christmas, ma tutti. Blue Christmas è molto ritmato, White Christmas invece è molto tradizionale. Silent, The Silent Night, che è Stille Nacht poi in definitiva, è tradizionale, però cantato come era una vera voce. Elvis aveva una capacità vocale che prendeva, scusate l'espressione, tutto. My Way, che è un classico di Frank Sinatra, in realtà è di Claude François, poi tradotto in American English, è cantato splendidamente. Certo, non è Elvis del rock and roll. Per Elvis del rock and roll consiglio invece questo The Heartbreak Hotel, cioè l'hotel dei cuori spezzati. Spiega, insomma, è una canzone dove si parla di quelli che muoiono d'amore, magari anche arrivando al suicidio. Io ricordo due persone negli anni 90, anche qui, che si sono, due amici che si sono presi la vita per questo. Non si crederebbe, anche persone colte, persone, insomma, che hanno un certo iter studiorum, e invece no, invece la cosa è successa. Quindi anche su questo una problematica, poi è fatto in maniera anche relativamente scanzonata, però il tema viene posto. Ecco, anche qui il discorso dei testi scadenti del rock and roll in gran parte è vero, non sempre. Non sempre. Un esempio invece di censura, c'è quella canzone che si chiama One Night of Sun, cioè una canzone, scusate, una notte di peccato, che invece nell'originale, che Elvis ha potuto incidere solo tardivamente, si chiama One Night with You, quindi una notte con te era proibito, una notte di peccato invece era permesso. Il codice di censura Harris negli Stati Uniti è molto rigido. Era molto rigido, era, perché ora passa di tutto, no? Passa di tutto, anche, vabbè, poi in modo, tra virgolette, in rete, notoriamente passa di tutto, no? Noi qui presenti in genere ce ne rifugiamo, però c'è veramente di tutto, ci sarebbe di tutto, io. Non, però diciamo c'è quel limite che è poi difficile da individuare, no? Dicevo, a proposito appunto di Schnulzen, ce n'è una formidabile, ce ne sono anzi tre formidabili per Don Elvis, come io lo chiamo, cioè il O Sole Mio, che diventa praticamente, adesso sì, ho un lapsus, ma viene tradotto in modo totalmente Now or Never. Or Now or Never, sì, giusto, bravissimo. Ecco, o Sarando, che sarebbe Torna Sorrento, una roba così, sì, no? Sì, sì, ah. Ma il proprio, avrebbe detto il grande prof de Thomas di matematica e fisica, è come la fragola sulla panna, no? Quindi il contrario, insomma, no? Per dire, ecco, che musiden zum Städtle hinaus, und du mein Schatz bleibst hier, in tedesco, e lo fa anche in un orrendo pseudo tedesco, in realtà American English Elvis, ed è da ascoltare. In inglese è, dunque, oddio, l'ho scritto, ma dovrei vedere, insomma, però siccome lo fa anche in tedesco, c'è il dubbio, in tedesco, insomma, in simile tedesco, non so come si possa ben definire, e è un obbrobrio vero, insomma, no? Perché lo fa invece, e ascoltate questa versione prima di quella di Elvis, Marlene Dietrich. Ecco, io parlavo di icona gay. Marlene Dietrich è veramente un'icona gay. È un personaggio androgino, oltre ai suoi grandi meriti di attrice e di cantante. È veramente il puro androgino. Guardate se in YouTube trovate di tutto riguardo di tutto, nel senso di canzoni e altro, no? Una grande cantante, ma anche un fascino per chi, diciamo, non è prettamente eterosessuale, vale per me, e quindi non ho problemi a dirlo, del resto è la verità, e quindi vi assicuro che la pura icona gay, Marlene Dietrich, non tanto altri personaggi che sono stati, oltre a un grande merito storico. Ha fatto la spia contro i nazisti, quindi chapeau in eterno, no? Questo veramente forever and ever, perché credo, dicevo, tornando un po' a quelli che hanno fatto del rock and roll senza farlo, un personaggio che è ancora vivente, Paul Anka, credo che conosciate, no? È un, è musica molto ritmata, però è notevole. C'era questa canzone Diana che ha fatto scandalo perché era dedicata alla sua professoressa di piano. Quindi un uomo, un ragazzetto che si innamorava di una donna era uno scandalo all'epoca, ora non fa più scandalo nulla naturalmente, ma all'epoca era così. E quindi ha avuto anche i suoi problemi, oppure You Are My Destiny, no? Che è molto famosa, no? Una cosa, anche questa, che è molto retorica, no? Dire a una persona che è il suo destino. Ma io facevo un gioco poco piacevole in spagnolo, dicevo, se la signora si chiama Luz, sarà Luz de su vida, non della vita altrui, insomma, no? Scusate, le battute ogni tanto, insomma, non si dovrebbe, ma ogni tanto si trascende, purtroppo. Ecco, così, questa è una figura interessante, Paul Anka, figlio di libanesi immigrati, da poco. Ankain è il vero numero, è il vero nome, scusate. Come, non so chi lo sappia, ma Charles Aznavour non è assolutamente francese. Vediamo chi lo sa. Armeno. È armeno. Ed è Aznavourishan, il vero nome, no? Quindi il grande chansonnier e anche attore, io non ho visto film, ma so che ha fatto film. Aznavour è in realtà Aznavourishan ed era il responsabile per l'Armenia, per l'ONU, pensate. Mi diceva qualche amico che in una trasmissione televisiva, purtroppo non l'ho seguita, non l'ho neanche registrata, non l'ho guardata, mi dicevano che Aznavour appunto ha dato molto anche al popolo armeno, quindi ha donato, diciamo, molto alla ricostruzione armena, che è anche difficile, no? Schiacciati tra turchi e russi, immaginatevi un po', lascio immaginare, ma lasciamo perdere, insomma, queste cose tristi. E poi c'è anche un altro personaggio che è, diciamo, in questo ambito, che è anche lì tuttora vivente. Ed è, vediamo se ricordatevi, se vi ricordate, è più o meno un coetaneo di Bianca. Tuttora vivente, di origini sia sefardite, quindi ebraico-spagnole, diciamo, in complessione, sia ashkenazite, quindi dall'est Europa, che è sicuramente il nome vi dirà qualcosa. Vediamo. Sì, ho sentito. Ho detto, no, ho detto vediamo, se mi dirà qualcosa. No, probabilmente invece era giusto, io non ho non ho sentito bene, quindi me ne scuso, guardavo male, e invece è decisamente un personaggio che voi conoscerete, no? È Nils Vaka. Nils Vaka, no? Questo O Carol, che era dedicato a Carol King, Klein in realtà aveva cambiato nome, questo King of Clowns, no? Redrick Clown era anche un... è decisamente melodico. Sono persone che hanno studiato lo strumento, segnatamente il piano, e quindi hanno una formazione pianistica che, per esempio, invece Elvis non aveva. Bisognava dire Elvis Presley, perché nel rock più recente c'è anche Elvis Costello, ma indubbiamente quando si legge o si dice Elvis si intende Elvis Presley. Vorrei raccontare un episodio che magari nel libretto non è ben evidenziato, a proposito un po' di quello che dicevo prima. Presley è stato un velocissimo, nonostante che si muovesse in un certo modo e che lo si chiamasse Elvis the Pelvis, quindi in riferimento al diciamo al bretano, ecco, per non dire altro, per gli ancheggiamenti e i movimenti, e addirittura un pastore di queste chiese un po' inventate che ci sono negli Stati Uniti, queste chiese evangeliche cosiddette che non hanno molto radicamento biblico, se è consentito dirlo. Ecco, questo signore aveva scritto è il top della degenerazione. Una cosa che è successa a Bill Haley ha marciato molto sul suo nome, era anche bravino, però aveva fatto un concerto, immaginate un po' dove, nella Germania Est, Germania cosiddetta comunista, comunque del blocco sovietico, all'epoca di Ulbricht, era ancora più duro di Honecker, quindi io ho fatto il passaggio per andare a Berlino in macchina, negli anni Ottanta, c'era ancora pochi anni prima della caduta del muro, e si passava per la come si dice, autopista, l'autoroute, l'autostrada, ecco, quella nel territorio della Germania Est, un disastro. Eravamo in tre, io non guido notoriamente, quindi insomma non... E, ci hanno perquisiti, ma non dico come, insomma, una roba incredibile, insomma, perché insomma nessuno aveva droga, nessuno aveva nulla, eppure eravamo sui 30 anni, però insomma, porca miseria, non è che fossimo criminali incalliti, insomma. Ecco, per dire, e anche lì il giornale, forse era Das Neue Deutschland, ma Das Deutschland aveva scritto, quindi l'organo del Partito Comunista Locale aveva scritto che è la degenerazione borghese, Bill Haley, quindi il rock and roll è la degenerazione borghese, no? Secondo certe interpretazioni. Prendiamo conto anche di questo, per carità, no? Che sia un fenomeno forse piccolo borghese a livello sociologico può essere vero, però che anche moltissimi proletari si divertissero con il rock and roll, questo è un fatto. Quindi attenzione alle etichette anche qui, no? Bisogna fare un po' di mente locale. Ecco. Magari così leggiamo il testo su Elvis, l'inizio. Quello che mi rimane. Ridirò alcune delle cose che... Quello che abbiamo cazzato giustamente, no? C'era sempre proposito di ricordi, io alcuni ricordi Bolzanini belli li ho, uno di questi, anche se veniva poi tutte le domeniche con la scusa che eravamo ex allievi, sia io sia mia mamma, era il compianto professor Moggio. Cassa, mi ricordo quando faceva cancellare la lavagna, cosa che io non sapevo fare, quindi insomma, ero un po' in, diciamo, classico imbranato. Ecco. Sì. Musica Elvis, ma non solo. Il museo itinerante di Elvis Presley, Graceland, che anche nel 2013 ha percorso l'Europa, fa venire in mente molte cose. In primis, la straordinaria sintesi tra deterritorializzazione e riterritorializzazione. Deterritorializzazione è il rock and roll spiazzante, totale, sostanzialmente amelodico, di canzoni come Hound Dog, dove non basta il coro corretto per ristabilire una linea melodica, ma è anche il movimento del bacino che scandalizza gli integralisti religiosi. Riterritorializzazione è invece l'attaccamento di Elvis a oggetti, monili distintivi degli sceriffi di contea, della polizia in genere, brillanti, diamanti, foto d'epoca, macchine enormi come le sue Cadillac, talismani, gli elementi superstiziosi, l'amore che un freudiano chiamerebbe edipico per la madre Gladys, il dramma irrisolto del gemello morto quasi subito dopo la nascita, l'attaccamento, gelosia, alla moglie Priscilla Bouillet, che lo porterà a pensieri omicidiari verso l'amante di questa, il conservatorismo politico per cui in certe fasi della storia americana Elvis diviene la American Boy, ligio a Dio, patria, famiglia. All American Boy è un refuso, okay. All American, cioè all totalmente American americano, insomma. Patria, famiglia, ma anche funzionale al progetto maccartista dominante negli States degli anni 50 e 60, ben oltre la sostanziale esclusione del senatore Joseph McCarthy dall'agone politica, 1954, ad opera del presidente Ike Eisenhower, e la morte dello stesso senatore nel 1957. Ancora, Elvis fotografato nei rotocalchi e immortalato nei film quale bravo soldato in Germania. Elvis quasi agente FBI contro droga e cappelloni, quando invece morirà per una miscela mai chiarita di alcol, sonniferi, barbiturici, antidepressivi vari. Grande Elvis trasgressivo, come si è peraltro già detto del rock and roll, ma anche l'Elvis perfettamente melodico. Love Me Tender, tra l'altro sua composizione. Il Presley cui riesce la sintesi tra melodismo e rock and roll. Heartbreak Hotel, emblematicamente con il testo venato di romanticismo, anche quasi dark. L'Elvis delle canzoni religiose e natalizie, gospel, spiritual. In Noel, Mama Liked Roses, sì. Le fortissime radici blues, Don't e Country, That's a Right Mama, A Blue Moon of Kentucky. Ma anche il Presley, puro interprete di canzoni quali My Way, quasi un crooner, certo alternativo a un Frank Sinatra o Andy Martin, per non dire dei crooner precedenti, chiaro, convivono in qualche modo nell'interprete, ma spesso anche autore. Presley, figura a sé stante, diversissimo da tutto quanto si profila prima, dopo. Il suo incontro con i Beatles è contrassegnato da grande correttezza formale, ma Elvis, non si adatta allo stile beatlersiano, tanto più è completamente alieno dalla relativa moda. Elvis Forever? Forse sì, ma purché se ne vedano radici e possibili fonti. Sì, ecco, questo per completare un attimo, c'è un libro e c'è anche un, non so come dire, film documentario, quasi documentario, che è Elvis e Nixon, col il rapporto col presidente Nixon, ossia quando Presley viene ricevuto alla White House, alla Casa Bianca, da Nixon, con alcuni problemi, perché insomma non era usuale che un cantante di rock and roll, seppure ormai negli anni 70, venisse ammesso alla White House, però in realtà appunto lui si pone come proprio il difensore, diciamo, dell'Occidente cristiano, per usare famosa formula, contro non tanto ormai o anche naturalmente il comunismo, ma contro appunto i beat o i cappelloni, queste cose qua, no? Contro le droghe, e purtroppo diciamo è un po' da che pulpito, potremmo dire in modo un po' volgare. Ecco, questo è un po'. È di Oliver Stone il film, che è una persona che si documenta leggendo molte fonti, questo, quindi ha un background storico che è notevole, questo è da dire. Oltre appunto a Nils Vaka, Polanka, questi personaggi un po' così peritestuali, c'è anche una tradizione invece che deriva dal country, e questo vale più che altro per gli artisti bianchi, se è brutto appunto definire in questo modo, e per esempio questa è una figura che io veramente propongo di approfondire, di leggere così anche dal punto di vista testuale, no? E lo trovate nel libro, ma ve ne dirò qualcosa in breve, ed è un pochino appunto al di fuori dell'ambito che si è detto, quindi un po' lo chiamavano addirittura il Caruso, per l'estensione vocale, per la capacità di cantare quasi come un cantante lirico, un cantante d'opera. E questo è veramente, diciamo, un personaggio interessante. E ha avuto i suoi problemini, perché era... aveva problemi di lista nera, la lista appunto del senatore McCarthy. Voi sapete che la lista del senatore McCarthy era riferita a persone che erano non simpatizzanti comunisti, erano sospettati vagamente di avere qualche simpatia in quel senso, e addirittura in genere si dice, non so, Dalton Trumbo, scrittore, sceneggiatore di Hollywood, no, addirittura c'erano personaggi che erano nell'esercito, generali che venivano sospettati di filo comunismo, e che naturalmente era gravissimo, perché certo. La questione dello spionaggio, eccetera, no? Anche Arthur Miller, no? Quindi sì, tutto questo che si lega al problema, no? E questo signore era ne gira una canzone anche in film, e ho visto qui nel teatro qui vicino, verrà proposto Pretty Woman, come in forma di musical. Pretty Woman è la canzone più famosa, però io consiglio invece questo California Blue, che non vuol dire, attenzione, non, ossia non è il blues propriamente detto, è la radice del blues, cioè la tristezza. Cioè anche nella California, che è considerata opulenta, belle spiagge, tutto quello che volete, in realtà c'è chi ha problemi a, come dire, sbarcare il lunario. Quindi la tristezza anche nella, nella zona più opulenta degli Stati Uniti. E qui veramente invito a approfondire il personaggio, no? E sì, dove eravamo, no, non seguo un ordine, quindi non ha senso cercarlo. Oppure un personaggio come questo, senz'altro invece l'avrete sentito, questo, questa canzone Bebop Alula, Gene Vincent, no? Che era un pazzo scatenato, veramente, era, ossia, era, no, era un reduce dalla guerra di Corea, decorato, ferito in modo grave, quindi non ho approfondito il problema, però insomma, se uno è veterano di guerra deve avere riportato ferite gravi, credo. Ecco, e però poi appunto si scatena con questo ritmo, per così dire, scatenato. E aveva anche composto la musica, questo vale per molti, non sempre per Elvis, che raramente scrive le sue canzoni, no? Questo è un po' il problema, il buco nero, anche se, se volete, brutto parlare di buchi neri, ma so, diciamo in questa accezione, perché poi invece astronomicamente hanno una funzione ben determinata. E poi c'è l'episodio invece di quella che è stata considerata The End o The Death of the Rock, cioè la morte, la fine del rock, ossia appunto Buddy Holly e Richard Valens, che in realtà è Ricardo Valenzuela, i messicani di cui dicevo, nato a Los Angeles, ma in realtà oriundo, diciamo, messicano. E qui è un discorso particolare, perché è un, anche questa è una canzone che conoscete tutti, La Bamba, no? Che è un ritmo assolutamente, è il tentativo di mettere in rock and roll la canzone latina, la canzone segnatamente dei chicanos, dei messicani, no? Ecco, e qui è, un, è una situazione molto importante. Voi sapete, c'è attualmente Carlos Santana, ancora vivo e attivo in mezzo a noi. Io ho seguito a, a Pistoia, ricordo, nel 2015, solo che ero, ero messo abbastanza male dopo l'operazione grossa, e quindi, però vi assicuro, scatenarmi ballando, no, anche perché non, non va, le ossa non vanno bene, quindi non posso. Però la tensione a farlo c'era, perché Carlos Santana è ancora da Woodstock in qua, è un personaggio straordinario, è una cosa, famoso Oyo Komoa, no? Che poi in realtà è Oyo Komoa e il ritmo, cioè hai ancora il ritmo. Non è sempre il caso, purtroppo, no? Per chi delle mie favole ha narrato, ha passato i 60 da un decennio, la cosa è problematica, anche perché le ossa si sono rattrattite presto, insomma, per un incidente tecnico, e quindi anche questo ha le sue, ha i suoi... diciamo, pensate un po', sia Eddie Cochran, sia dico col nome vero, Ricardo Valenzuela, avevano preso un aereo, uno di quegli aerei un po' non di linea, ovviamente, insomma, quelli che... E Valenzuela aveva 18 anni, neanche 19, insomma, quindi immaginatevi un po'. Stessa cosa per Eddie Cochran, anche lui un grande, che invece era a Londra, lui americano, gringo, come si dice, non è un complimento, viene da gringo, cioè quelli che avevano l'uniforme degli Stati Uniti, in Messico, tutte le guerre tra... un po' rapaci che hanno fatto gli Stati Uniti per prendersi New Mexico e non solo, diciamo, tu che hai l'uniforme verde, cioè sei appunto uno statunitense, vattene, go, no? Vai. Ecco, quindi qui diciamo anche qui la cosa. Per dirvi, Cochran addirittura un tassì a Londra. Aveva preso un tassì a Londra, qui hanno fatto poi grandi libri, letteratura su questo, spesso anche letteratura, ancora una volta, insomma, viene da dirlo in altre lingue, da, con tutto rispetto, da lavandaia, insomma, un po', no? È un mestiere nobilissimo la lavandaia, però insomma i discorsi tra la lavandaia spesso per motivi contingenti sono un po' così, insomma, no? E andante leggero, per dirla con una denominazione che va bene invece per le sinfonie, ecco, quindi c'è un qualcosa che... Ecco, a proposito invece di grandi, di personaggi che hanno fatto forse anche più di un Elvis, ma erano un po' più in sottordine, cito questo Fats Domino, il meglio si direbbe Fats Domino, perché era di New Orleans, della Louisiana, e cantava, parlava anche con un accento che è quello della Louisiana, l'accento francofono. Ecco, ora, che cosa aveva Antoine Dominique Domino, come il nome è vero, insomma, però Fats in inglese vuol dire grosso, corpulento, e lui era così, e ci scherzava sopra. Un motivo, una canzone che è da ascoltare senz'altro è questo The Fat Man, quindi l'uomo corpulento, l'uomo grosso. E questo è era uno straordinario pianista, compositore, pianista, e non ha mai fatto scandali, notizie come altri, non solo perché era nero, perché Chuck Berry ne ha fatto di tutti i colori invece, Ecco, per dire c'è anche una... bisogna distinguere, no? A parte che stilisticamente qui siamo su una musica che è diversa, che ripropone il cajun, che è la musica tipica della Louisiana, o anche, diciamo, la, proprio lo specifico di New Orleans, o New Orleans, come meglio si direbbe, perché città di origini francesi. Ecco, direi qui, questo è un autore e interprete anche come pianista da ascoltare integralmente. Non troverete tutto. Sì, ci ho pensato anch'io. Sarebbe stato da cantare accanto al o a mettere dei pezzi. Petro Minò no? Anche una voce particolarissima, questo accento di cui vi dicevo, e queste radici che stanno tra blues e anche musica sacra, no? Musica da chiesa. Su questo però un attimo io vorrei dire qualcosa. Moltissimi, ho citato prima Bill Haley, ma anche, vale anche per Chuck Berry, che era un, così, un scapestrato, diciamo, come molti, o altri, l'aver cantato in chiesa in coro è un qualcosa di comune a questi artisti in genere. Nella tradizione protestante o evangelica, che dir si voglia, soprattutto la Chiesa Battista, ma non solo, questo è radicato, è molto più radicato che per chi è di provenienza cattolica o è cattolico, insomma. Ecco, questo è da sottolineare, il canto in chiesa. Quindi, per esempio, tutti i pastori che si scandalizzavano, forse però ci sarebbe da dire qualcosa, perché sono tutti personaggi che hanno cantato in chiesa. Non è che vengano, insomma, da un pianeta sconosciuto o altro. Vengono da quello che più o meno è comune a molti di noi, insomma, no? Per provenienza, insomma, almeno. Poi le scelte che ognuno ha fatto è altra cosa. Però, diciamo, questo è da tenere ben presente. E questo cosa implica? Anche il discorso del cantare in coro. Tutte le band, i gruppi, in italiano non va molto bene, perché gruppo non vuol dire nulla in definitiva, no? Dall'agglomerazione sociale al gruppo sanguigno c'è di tutto, quindi non c'entra il gruppo musicale. Bisogna poi precisare, allora, band, no? Gruppo musicale, come si vuol dire, insomma, no? Quindi l'esplosione dei gruppi in realtà è già in genere formazioni piccole, cioè chitarra elettrica, eventualmente tastiera, non sempre tastiera. Appunto, ho citato prima un esempio di illustre pianista, ma non vale per tutti, o anche già l'organ Hammond, l'organ elettrico. La strumentazione elettrica è il novum del rock and roll totalmente, e anche, se mi è permesso di dire, la batteria. La batteria, voi sapete che, per esempio, il componente più scadente, mi sia concesso, dei Beatles, ancora vivente, Ringo Starr, è una sciagura. Cioè, è stato preso dai Beatles per seconda opzione, seconda opzione, perché non era, non mi ricordo il nome del primo, ma era stato cooptato dopo. Ringo Starr poi ha fatto di tutto, ha fatto televisione, cinema, insomma, tutto abbastanza male mi risulta, non sono uno specialista, ma insomma, Ringo Starr è proprio una sciagura in realtà, no? Lo tenevano, non si sa bene per che cosa, insomma, no? Non sono cristiano, però, voglio dire, John Lennon, da un punto di vista quantomeno poetico, aveva una sua. Paul McCartney è un musicista, chapeau, al musicista McCartney. Ha scritto opere, ha scritto musicals e tutto, forse più da quando non è più, non esistono più i Beatles, insomma, no? Però, ecco, e tutti questi signori che più o meno ci parlo, sono anche la radice, la root, diciamo, del rock attuale. Ma posso farle una domanda? Sì. Ma e col, diciamo, con quello psichedelico, il rock psichedelico, come si pone lei? Tipo i Pink Floyd? Quello appunto è dopo, anni rock. 70, 80. Un roll. Ed è appunto quei grandi, direi lì addirittura Pink Floyd, soprattutto, ma già, non so, un gruppo abbastanza maledetto come i Black Sabbath, che facevano cose strane, no? Abbastanza orribili in realtà, no? O i gruppi di Suicide, no? Quelli che, sì, insomma, ci sono vari così, anche episodi che sono più spettacolari che altro, ma i Pink Floyd naturalmente sono a un livello serio, signori, no? Quella è la psichedelia seria e vera, no? Altre cose sono colui che ha cercato di far risorgere questo, diciamo, anni 80-90, in Nirvana hanno cercato di, con quello che sappiamo. Ecco, a proposito di maledettismo nel rock and roll, inizia un po' qua, ma in realtà non è poi del tutto vero. Perché i grandi e le grandi cantanti di jazz, non sono un esperto, devo dire però qualcosa, insomma, purtroppo già nel jazz abbiamo illustri esempi di questo, no? Di questo, di personaggi che in qualche modo, soprattutto all'epoca l'alcol uccideva, no? All'epoca del jazz, e poi invece le droghe, la sciagura, diciamo, vera e propria, perché scusate un po', se volete, il moralista, però insomma io ho visto amici morire di droga e quindi non fatemi pensare a questo, scusate. Certo. Veramente, ecco qui purtroppo bisogna dire, spesso tutto il dibattito anche televisivo e altro, che può essere anche utile, potrebbe essere utile in altra forma, ma quando diventa pura spettacolarità, per carità, Guy Debord, il teorico appunto della società spettacolo, aveva capito, o anche Van Egem, l'altro, aveva capito tutto ma io direi bisogna veramente a livello di un serio progetto rieducativo difendersi da queste cose. Perché c'è il rischio, soprattutto quando io non seguo, ma so che qualche volta, soprattutto in televisione, dibattiti a non finire dove c'è veramente di tutto, di più. Ma io cito, scandalizzandomi un po', Cuochi Renato. Un po' di tutto e un po' di niente. Quando c'è tutto, quando tutto si affastella e le idee e lo scambio ideale viene proposto in modo anche violento, interrompendo l'altro, eccetera. Ecco, questo non è il modo di proporsi e di proporre. Questo è lo scempio veramente. Ecco, io volevo avviarci verso la conclusione, qualche, no? Qualche così, intervento vostro. Se volete fare sì. Qualche domanda, possiamo poi. Anche perché sennò ci svela troppe cose, professore, non riusciamo più ad avere. Ecco, no, l'ultima per cosa lei. Che dico e prometto è il magari ecco, quello può meritare in parte di essere letto. La seconda parte non c'entra nulla, è autobiografica. Ah, va bene. Beh, un po' di autobiografia, perché sennò non è però a me interessava parlare di rock and diciamo roll. Che è la contrapposizione all'interno del libro. Si parla di rock and roll e poi a un certo punto siete perché ha a che vedere con rock and roll and my life è quella forse la cosa interessante. Cosa ha a che fare con Eugen Galasso tutto questo? I remember sempre la questione Malbechea a Roma, no? E quindi questo che è secondo me una filosofia di vita, non una filosofia, ma una filosofia di vita. Però un atteggiamento, no? Che alla fine ha un'ironia nascosta, ma che c'è. Lì io ogni tanto mi sono trovato a Roma e qualcuno. Amici, ma le creo. Allora ho detto, dico, purtroppo devo cambiare un po'. Era un po' sul pesante, insomma, bisogna un po' alleggerire le cose. Ecco, però io volevo sentire qualche intervento, magari. Non chirurgico, se possibile, ne ho già abbastanza. Abbiamo già avuto ecco, degli accenni, però qualche intervento sì. E bisognerà leggere questo libro con la musica, no? Perché ci sono tantissime citazioni. Sì, con Spotify ha portato di bisognava farlo con accompagnamento. In effetti, a pensarci si poteva portare. Problemi anche. Collassare, ricordavamo se fa meno Franco, di 30 secondi la commemorazione che facemmo anni fa e non c'è siamo fino a 30 secondi si è libero e c'era anche Francesco Tono che suonava e altro. Abbiamo avuto problemi con la SIAE. Sì, o si veniva qualcuno magari abbiamo avuto un problema con la SIAE. Ma la prossima volta, ma sa cosa, possiamo anche rivedere, no? Sì. Rifare tutta questa discografia di nuovo con le sue. Poi abbiamo anche il podcast, quindi insomma si può aspettare. Sì. Poi c'è una seconda parte che è ancora molto. Cioè, ci sono occasione per ritornarci. Sì, sì. In genere salvo. Dunque salvo, sì. I due o tre esempi che ho fatto, gli altri sono defunti, però evidentemente ci sono, c'è il copyright, quindi ci sono i diritti d'autore, insomma, no? Questo forse è l'ultima informazione, c'è il terribile, si parlava dell'ultimo giro, l'ultima tournée europea. Però ecco c'è il terribile colonnello Parker che gestisce tutto il discorso di Ellis. E quindi tutto è soggetto a estremo controllo. Se volete ascoltare in internet si può, però sarebbe proibito. Io lo faccio. Colonnello Parker ha detto che però come sempre interessantissimo, perché poi qui anche stasera ho imparato un sacco di cose nuove veramente, e tante, tanti suggerimenti, tante suggestioni anche, no, per ascoltare, per condividere. Grazie grazie a voi, bravi. Bravissimi.